cercherò di trionfare su di esse. C'è riuscita? Sì. Di sicuro. Ma qual è una cattiva passione sulla quale ha vinto? Quando sento qualcuno che parla male delle persone che non sono presenti, io sento la presenza del male. E quando sento qualcuno dire, oh, come sono arrabbiato oggi. Ecco, questa persona ha perduto il suo controllo ed è spiegabile. La terza è, per quanto faticoso sia lo studio, continuerò a studiare. Sì. E lei cosa sta studiando adesso? Sì. E che cosa studia? Cosa? In questo momento sto studiando il giapponese, che è difficile, e lo studio per un libro futuro sul sufismo, perché ho intenzione di parlare di questa filosofia in questo libro. E in questo momento di cosa si occupa? Sto finendo l'ultimo volume di una trilogia. I primi due sono Care memorie e Archivi del Nord. Il terzo è Quale eternité, che è il più lungo dei tre ed è quello a cui sto lavorando ora. Ecco, la quarta regola Buddha dice, per quanto innumerevoli siano i milioni di esseri erranti nell'immensità dei tre mondi, lavorerò per salvarli. Sì. E lei cosa fa per salvarli, questi uomini? Okay. Vale anche solo se si prende una formica che è per terra per metterla su una foglia. Madame Yourcenar, lei ha detto, bisogna vedere le cose come sono, fare come Adriano, che vuole morire a occhi aperti. Yeah. Ecco, che differenza c'è tra morire ad occhi aperti e morire ad occhi chiusi? Occhi chiusi non si sa. Chi muore a occhi chiusi non sa cosa accade, non ha coscienza di sé, non sa cosa gli altri pensano di lui. Bravo se gli piace così. E a occhi aperti cosa vuol dire? Vuol dire provare a capire esattamente la situazione per sé e per gli altri. Ma lei ha paura della morte? No. Mix 24 800 24 00 24 SMS 349 238 6666. Mario, che dici? La Yourcenar ha detto che l'imperatore Adriano oggi sarebbe un finanziere, uno scienziato. No, ma io c'ho un titolo, dai. Dimmelo. È sparito l'eco. Ha sparito l'eco, carino. Senti, ma perché l'hai fatta doppiare? No, l'ho fatta doppiare perché era obbligatorio, perché purtroppo quando mi sono presentato gli ho detto madame, ma in che lingua vuol fare l'intervista? Lei mi ha detto, è italiano. Ma la faccio in italiano. Dico, ma sa l'italiano? No, ma io so il greco, il latino, lo spagnolo, il francese e sono stata 15 giorni a Firenze, quindi parlo italiano. In realtà era molto generosa, era si sforzava, ma parlava carino. L'esperanto e quindi abbiamo dovuto farlo per forza. E tu, Pietrangelo, che dici? Dico che sono rimasto avvolto nella conversazione, mi è piaciuto tantissimo perché ha una visione che non è soltanto quella del ciripiripi letterario, anzi, al contrario, ha una profondità. Kodak, ricordatelo. Non lo so se. No, io pensavo al ciripiripi, alla canzone degli anni 30. E io invece la pubblicità. Detto ciò, ha detto che l'Oriente inizia a Bruxelles, dovresti essere contento. Beh, certo, è l'Africa, l'Africa a Roma. C'era anche quell'immagine di Leonardo Sciascia della linea della palma, man mano che la palma avanza crolla. Vabbè. Tutto. La canzone. Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ritroverai le stesse cose. Allora, cantante nuovo. Allora è una grande canzone, una bellissima grande canzone di Bruno Lauzi nella versione di Franco Battiato. Strano. Un ritornerai, si ritorna. E allora ne approfitto per dire che c'è una cosa che nessuno sa. Giovanni, oggi è il 17 marzo, è la festa dell'Italia ed è significativo che nessuno lo ricordi. Allora io farei una cosa. Povera patria. Affiderei agli ascoltatori la lettura di un pezzo molto bello uscito oggi sul giornale. Che anima latina, che cuore mediterraneo, che mente italica. Un bellissimo pezzo di Marcello Veneziani. Oggi è il 17 marzo ed è la festa dell'Italia e ritornerà. Abbiamo imparato un'altra cosa. E che cosa bolle in pentola oggi? Giovanni, è decollato, ma non è mai atterrato. Mai. Mai, mai, mai, mai. È una storia incredibile. Io do due numeretti così perché sono interessanti. 300.000 miglia quadrate e 25 paesi coinvolti nella ricerca del jet malese. Tu hai novità? Sì, no, io ho un comandante di un aereo come il volo MH370 scomparso 9 giorni fa. Un comandante di cui non diciamo il nome perché è stato chiesto ai piloti di non parlare. Ecco, comandante, è possibile uscire dal radar volontariamente? È possibile interrompendo l'emissione che da parte dell'aeroplano attraverso un dispositivo che si chiama transponder consente ai radar, alla modalità secondaria del radar, di vedere i dati relativi a quell'aeroplano, ecco. Cioè la sua quota, la sua posizione, eccetera. Dov'è, insomma, la sua vita. Esiste in quella zona, lei conosce quella zona, no? Esiste un punto perfetto nel quale si può scomparire o è più facile scomparire? No, in linea di principio non esistono punti perfetti dove scomparire. Possono esserci delle aree geografiche meno coperte o meno controllate, ma sono delle aree, tra virgolette, periferiche. Sì. Chiaramente avvicinandoci poi alle aree geografiche importanti, calde, ai confini, sì, dei paesi, che siano caldi o meno caldi, è chiaro che ogni paese ha il suo sistema di sicurezza. Comandante, adesso però è chiaro, così si dice che quando c'è stato l'ultimo contatto radio tra la cabina e il tutto ok del comandante, i transponder erano già stati spenti. È un'operazione semplice, mi pare di capire, allora. Sì, sì, spegnere il transponder è un'operazione estremamente semplice, ma ripeto, spegnere il transponder significa impedire l'uso del radar secondario. Sì. I radar primari restano, che vengono della difesa, restano, cioè il radar emette un segnale, questo segnale colpisce il bersaglio, che è un aeroplano, un oggetto qualsiasi, torna indietro e quindi viene identificata, ecco, la sua posizione dall'operatore. E sì, tutte queste notizie vanno a finire attraverso un percorso, insomma, che è inutile descrivere, vanno a finire fino alla casa madre, cioè la Rolls-Royce, per essere chiari, conosce la vita del motore che ha costruito. Non esattamente, nel senso che a bordo di questi aeroplani molto moderni ci sono dei dispositivi che utilizzano i sistemi satellitari, sì, e che trasmettono costantemente alcuni dati relativi al funzionamento di alcuni sistemi, tra cui evidentemente anche i motori, ma anche rispetto alla tempistica dell'aeroplano, alla sua quota, al suo posizionamento, eccetera. Questo sistema di trasmissione è di per sé autonomo. Sì. Una parte di questi segnali può essere riferita alla Rolls-Royce. Glielo chiedo, comandante, perché si dice, i giornali inglesi l'hanno scritto, che dopo la sparizione del transponder, dopo lo spegnimento del transponder, i segnali di vita del motore si sono protratti per ore e ore. Sì, dunque, questi segnali, se sono reali, beh, naturalmente, testimoniano l'esistenza di un dispositivo che attraverso la rete satellitare trasmette all'operatore, cioè alla compagnia aerea, i dati dell'aeroplano. Un'altra parte di queste informazioni, esatto, queste arrivano, che sono autonome, non sono disponibili, per così dire, ai piloti, esatto, perché anche i circuiti elettrici, certo, i circuiti elettronici risiedono altrove rispetto alla cabina. Ecco, ma facciamo un esempio: questo aereo, se voleva entrare in modo clandestino tra la Cina, la Cambogia, il Pakistan, per ragioni che non so, cosa poteva capitare? Qui mi sembra che invece ci troviamo di fronte a una sparizione in termini, perché se nei controlli che vengono fatti ai passeggeri vengono sottratte persino le tagliaunghie e poi ci accorgiamo che nel backstage di tutta questa organizzazione le difese aeree non seguono gli aeroplani o riescono a farli sfuggire, qualcosa non torna, certo, come in questa storia. È anche possibile quello che forse lei ventilava, cioè che un aeroplano, un intrusore, per cercare di sconfinare o per entrare in un territorio dove non sarebbe considerato amico, si possa nascondere nelle vicinanze o al di sotto, in prossimità di un aeroplano commerciale. Lì non verrebbe percepito dai radar, no? Riuscirebbe a escludere. Non verrebbe percepito, perché anche il radar primario leggerebbe, certo, la traccia diciamo del grande aeroplano dell'aereo che lo copre, diciamo. Esatto, sarebbe coperto. Vabbè, questa è un'ipotesi. Ora, qui entriamo nel mondo, appunto, vabbè, siamo nella fiction. Esatto. Però nello stesso tempo ci dobbiamo anche rendere conto che tutte le informazioni che abbiamo ricevuto su questa storia in questi 7 giorni rischiano di essere persino contraddittorie, cioè c'è una parzialità di informazioni che può far pensare persino a una manipolazione. Certo. Ora, a nord del punto Igari, mi sembra che si chiamasse il punto dove l'aeroplano è tra virgolette sparito, ci stanno paesi di importanza strategica eccezionale, il Vietnam, la Cambogia, la Thailandia, la Cina. A sud c'è il mare aperto, cioè non c'è più nulla. Quindi, a meno che non si consideri la base Diego Garcia, che è una base anglo-americana. E quindi lei, l'ipotesi finale, perché siamo in chiusura? Non faccio un'ipotesi, però credo che tutto quello che si stanno raccontando fino adesso sia estremamente parziale. Ci raccontano delle balle, va bene, ho capito. Penso di sì. Grazie comandante, buon lavoro. Anche a voi. 800 24 00 24, il numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, andiamo avanti con le bolle. Allora, questo è un gruppo pop rock, diciamo, che stava in piazza in Crimea ieri a festeggiare che cosa? L'indipendenza, la secessione, l'annessione volontaria alla grande madre Russia. È successo esattamente quello che avevamo previsto. Solo una domandina, perché il Kosovo sì e la Crimea no? Ma perché così? La Crimea è russa, no? Perché, come voglio dire, la Crimea è russa, certo. Sì, però poi sono discussioni che, se vogliamo essere un po' maligni, vogliamo arrivare in Crimea? No, ma arriviamo al plebiscito, quando il regno felicissimo delle due Sicilie venne annesso festosamente. Siamo a monarchia repubblica. Monarchia repubblica. L'unica monarchia è quella del Borbone. Ah, va bene, quella di Ruggeri. E ovviamente i romani. Aspetta, prima della pubblicità. Monarchia di Ruggeri. Sì, c'è la democrazia di Ruggeri. Ruggeri, pronto? Allora, pubblicità. Buongiorno. Pubblicità o vera censura è capitata alle invasioni barbariche? Censura è una parola impegnativa. Censura. Non è mio. Hanno cambiato le scalette. No, diciamo che mi hanno chiamato, sono venuti meno alla parola data. Ah, vabbè, allora può capitare anche ragioni editoriali. No, venire meno alla parola data, secondo me, secondo il mio pensiero, non può capitare. No, per me buttafuoco è una parola, è una cosa bruttissima, ma anche è una parola per me. Perché, come si suol dire, scusi. Non può capitare. D'accordo. Come si suol dire, l'uomo si riconosce per la parola, il bue dalle corna. Che spuntano sempre. Vabbè, comunque si rimedierà oppure no a questa cosa? Io non credo, non vanno fatti dei matrimoni, neanche dei fidanzamenti, neanche degli incontri a tutti i costi. Vabbè, tutto questo era per la canzone L'Onda, che mandiamo in onda. Posso dire una cosa ancora? Certo. Però certo, Enrico Ruggeri se le cerca le cose. Lui che si fa vedere fotografato con accanto la lapide che ricorda gli italiani di Istria, la povera Bignardi si fa venire la febbre. Pur di... certo, queste cose non andavano fatte. Cantante e pretendi anche di andare in certi programmi televisivi, non aiuta, no? Quindi L'Onda. Sentiamola L'Onda. Grande cambiamento, ci rimettiamo in movimento e saliamo sull'onda. L'onda, più positivi, sorridenti e vivi, rigidamente permissivi, trasportati dall'onda. Pietrangelo, non è più l'onda, è l'inno. C'è una marea, grande quella è la inno. L'onda, ora arriva la marea. L'inno dell'impero. Ed è l'onda dei mercati finanziari a dire che la Crimea è andata benissimo finora. Sono tutte su, il Mice 35 a Mosca è su dello 0.3%, stanno andando benino, stanno cercando di recuperare anche le altre borse europee. Che cosa significa? Che la soluzione della crisi con il referendum alla fine pensano che funzionerà, altro che sanzioni. E gli Stati Uniti stanno a guardare e noi andiamo in viabilità. Mix 24. Mi sembra che sia la nostra quota rosa, Sara Tardelli. Eccomi, fatemi spazio. Questa è dedicata all'incontro tra Renzi e la Merkel, che si porta dietro anche 6 ministri, tutti a Berlino. Insomma, speriamo che portino il messaggio giusto. Che dobbiamo fare? Che dici, Mario? Vediamo se si sono portati anche questo lì a Berlino. Scecco è il somaro. E ragazzi, Mario, io faccio cronaca, io sono un cronistaccio, e allora il somaro cosa c'entra? Allora, il somaro c'entra perché Matteo ha detto: non siamo gli alunni somari da mettere dietro la lavagna. Vabbè. E così oggi va dalla cancelliera Merkel e io voglio sapere come andrà. Tu hai qualcuno che ce lo spiega? Proviamo a farcelo spiegare dal nostro amico Tobias Piller, il corrispondente della Frankfurter Allgemeine. Allora, buongiorno. Tobias, buongiorno. È arrivato il momento che anche la cancelliera cambia idea se non vuole che l'Europa si disgreghi? Perché dovrebbe cambiare idea? Per non far disgregare l'Europa. Sì, ma non penso che bisogna imboccare la strada sbagliata per questo. Ma l'Italia... per adesso abbiamo imboccato la strada giusta per la Germania. Cerchiamo di allargare, farla giusta anche per l'Italia, la Francia, la Spagna, la Grecia. In soldoni, voi parlate tanto male dell'euro e della gestione dell'euro, ma il problema è un altro. Il problema è il declino con la globalizzazione che... purtroppo è arrivato allo stesso momento l'euro, così l'euro diventa il capro espiatorio. E quelle soluzioni che vengono... L'euro tedesco è il capro espiatorio, l'euro in assoluto ancora non l'abbiamo visto. Sì, ma la Merkel non potrà sacrificare l'euro gestito in modo indipendente da una banca centrale indipendente per una gestione tipo Liretta anni 70, è quello che si vuole. Però il problema è che ieri la Merkel sul Welt ha detto che sa di dover fare i conti con tutti quei paesi che chiedono lo stop dell'austerity e quindi anche lei dovrà fare dei compromessi, penso. In Germania penso che avrà una grande sconfitta se dirà: cari signori, indebitatevi quanto volete, poi il debito lo mettiamo in comune. Questo mi sembra per lei è la ricetta per finire la sua vita politica subito. Per adesso diciamo in comune mettiamo solo gli interessi della Germania, Al momento mettiamo un po' le cose in fila, nel senso che Renzi ha fatto vedere che si muove velocemente e deciso, ma non ha ancora fatto vedere che è in grado anche di aumentare la competitività dell'Italia, e su questo si parlerà. La Merkel dirà: Renzi ha fatto abbastanza bene cambiare Vabbè, cose, vedremo oggi come va a finire. La competitività la deve anche quella la deve cambiare. Vedremo. Mario, una domanda veloce. Buongiorno Tobias. Senti, tu pensi che non sia dunque sufficiente quello che ha mostrato Renzi, diciamo, nel suo primo vero consiglio dei ministri con i provvedimenti adottati? Ma questi provvedimenti fanno decidere a un produttore di scarpe di rimanere in Italia anziché andare in Romania o in Cina, faranno aumentare le esportazioni per queste cose che sono state decise. È stato un qualcosa che aiuta al consumo interno, e questo è stato fatto in modo che non sembra del tutto speculato. Grazie Tobias, ci risentiremo per commentare. Intanto via coi salamini. Arrivano i salamini e coi salamini l'appello a sua insaputa. È successo questo, è successo che... Un altro, non la casa, l'appello a sua insaputa. Allora, è successo questo, che le paginate del giornale di oggi sono piene, fitte di cittadini italiani che reclamano la grazia per Silvio Berlusconi. È stato lanciato questo appello affinché non i parenti, non i figli, non se stesso, ma tutto un popolo l'Italia intera chieda quindi... che venga data la grazia. Ma succede che il Corriere della Sera dà sta notizia che il Cavaliere invece si sia arrabbiato con Daniela Santanchè per avere lanciato questa iniziativa. Non può essere lei, giusto lei che è quella che ha combattuto che sempre contro. Si è arrabbiato il Cavaliere e si è arrabbiato anche la Cavaliera, cioè la fidanzata. Allora siamo tutti in attesa entro mezzogiorno che arrivi la smentita della notizia uscita, cannone del giornicolo. Ma nel salamino io vi vorrei segnalare che il nostro grande Balzac ha intervistato, nostro Balzac su Repubblica, ha intervistato Carmelo Lo Papa. Dimenticato il nome? No, Carmelo Lo Papa, che si firma con Balzac, ha intervistato Schifani, il quale ha detto, Renato Schifani ha detto che non ne vuole sapere di firmare anche lui la grazia per Silvio Berlusconi perché ormai è condannato, perché ormai non lo può fare. Tant'è vero che ieri se n'è andato a Piazza San Pietro e ha fatto un tweet: io con mia moglie sono qui per ascoltare il vero pastore. Praticamente, pur di andare contro Silvio, si affida pure al Papa e al Papa disse questo: cielo, hai dato un gatto bianco. Gatto bianco del Papa. La storia che oggi ci racconta Marina Milone è la storia dei cinque agenti della scorta di Moro uccisi a Via Fani il 16 marzo del 78, dopo il giornale radio.